dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E ben rieccovi trovati in diretta sempre dagli studi di Radio Panorama con questo riverbero gigantesco che non sappiamo cos'è, ma noi vi diamo ovviamente il benvenuto. Come ogni mercoledì, L'Onda in Onda vi terrà compagnia dalle 18.30 alle 20.30 sempre dagli studi di Radio Panorama, o potete ascoltarci in streaming ovviamente su radiopanorama.info. Infatti per questo dobbiamo dare prima di tutto i nostri contatti. E allora ci trovate su facebook.com/l'onda in onda con la L, oppure su twitter.com/l'onda in onda, perché non c'è solo il Papa con Pontifex, ma ci siamo anche noi su Twitter. Intanto vedo che arrivano ospiti in radio, poi li saluteremo dopo a poco a poco. Potete mandare anche sms al 380 7690204. Oggi in palio sempre un cd per chi risponderà al nostro sondaggio. Sì, no? Ma la domanda del cazzo lanciata così. Lanceremo la domanda del cazzo. Telefono 091 888 5182, se volete intervenire proprio con la bella vostra vocina in diretta. Oppure, come diceva Andrea, potete seguirci in streaming su www.radiopanorama.info o.eu. Inoltre continuate a seguirci, perché oggi continuerà la nostra rassegna Indie Rock. Avremo con noi Edo e magari annunciamo per la prossima settimana qualche news, qualche notizia che verrà. Arriverà magari nel corso della puntata. Sì, esatto. Insomma, per chi mi segue su Twitter sa già cosa potrebbe accadere, ma vediamo. Vabbè, ma non tutti ti seguono, quindi noi dobbiamo stupirli. Per chi non mi segue, insomma, restate con noi, perché magari ne saprete delle belle, ne sentirete delle belle. E poi continuiamo con la nostra classifica, le nostre 10 minchiate. Che vediamo, diciamo, quali saranno stavolta le 10. Quelle che abbiamo annunciato l'altra settimana, ovvero le 10 domande più stronze che ti faranno sui tuoi tatuaggi. Ma tra l'altro, sì, avevamo già detto la prima, quella sì, ma ora la ripasseremo. Ovviamente non possiamo non iniziare questo programma se non con la nostra sigla. 1, 2, 3, 4. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, grazie, odo, c'è fiermo, se va, chiamare! 1, 2, 3, 4. Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Siamo l'esercito del sangue. Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Siamo l'esercito del sangue. Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Siamo l'esercito, l'esercito del SEF. Ed eccoci qua su Radio Panorama. Facciamo sentire subito. Oggi sono io che prendo il posto di Andrea nelle cazzate linguistiche. Ti prego, Alessandro, fai sentire subito l'applauso del pubblico in studio, che al solito è numeroso. Alessandro non ha parole perché non sa esattamente come farci sentire l'applauso. A quanto pare è passato un vecchietto che ha rubato il microfono, ma eccolo, addirittura sono tantissimi. Ma in effetti sono davvero tanti oggi. Oggi sono davvero tanti. Studio, infatti, si muore di caldo. Nonostante fuori ci siano 3 gradi. Infatti noi invitiamo i primi a cominciare a uscire, quelli più vicini alla porta, così noi ricominceremo a respirare. Ma no, stiamo scherzando, già stavamo per uscire. Allora ragazzi, c'è settimana piena di tanta ciccia e tanta roba. Sì, è tornato lui. Vabbè, ma ne parliamo subito. Ma più tardi lo chiameremo. Addirittura lui ha voluto cambiare la suoneria per chiamarlo stavolta. Non più quella dell'inno, non diciamo niente. Non diciamo niente. Poi vedremo più tardi. Lui è bello perché il regista è sempre informato. Sì, io sono sempre informato di tutto. È lui che l'ha cambiata, tu non devi fare nulla. Lui fa tutto. Se non lo sanno quelli del PDL, quello che combina lui, perché dovresti saperlo tu, che sei l'ultima ruota del carro. Infatti non lo sa neanche manco sul carro sono io, se non ci sei manco salito, non ci salirai. Cioè, non lo sa neanche Angelino quello che fa lui, quindi figurati se lo puoi sapere tu. Allora, settimana piena di, come posso dire, le ultime notizie mi sanno molto di democrazia. Hai sentito di Beppe Grillo? Beppe Grillo ha detto Se non si è, se non vi, non vi va bene la democrazia. Non credo abbia parlato così. Vabbè, cioè, se non se, se non vi va bene la democrazia che c'è all'interno del Movimento 5 Stelle, andate via dalle palle. Più che altro, se non siete d'accordo perissequamente con le idee che propongo io all'interno del Movimento 5 Stelle. Sì, lui ha detto semplicemente fuori dalle balle, tramite Twitter, tramite il suo blog, a due, che tra l'altro erano due pezzi grossi, Favia e Salsi. O Favia e Salsi. Scusate, io ho scritto ovviamente oggi, ho detto, vabbè, è un po' come quando Berlusconi, cioè equivale alla stessa frase che ha detto Berlusconi quando ha detto pagavo Rubi per evitare che si prostituisse. Certo, è un esatto. Bene, vai. Non ti va bene quello che dico? Via, fuori dai coglioni. Non è vero che non sono democratico. Assolutamente sì. La base ovviamente si sta ribollendo, sì, sta riorganizzando. Sì. Ma a proposito, durante la settimana, non so se sapete anche che c'è il rischio che il Festival di Sanremo, so che tutti piangerete adesso, venga slittato, perché coinciderà più o meno come periodo con le elezioni, e dopo quello che è successo alla Littizzetto, che ha detto, sai, quella famosa frase, dice non dico il pudore, che è un sentimento antico, però dovreste almeno capire che avete rotto il cazzo. Sai cos'è? Si è scatenato un po' un putiferio. Il Moice, allora, soprattutto, ha intervenuto, questo movimento dei genitori. Sì, no? Nessuno dice cazzo. Il fatto è che ormai, dai, possiamo dirlo, Berlusconi lo dicono un po' tutti, non è che bisogna scandalizzarsi per così poco. Sì, è una parolaccia che dicono tutti, Silvio. Anche Silvio anche a volte. Silvio. Vabbè, io direi che scusiamo dopo... per aver detto più volte Berlusconi in questa puntata. Ovviamente. Non vogliamo, riprendiamoci con un po' di cazzo. Sì, assolutamente. Soprattutto riprendiamoci anche se domani è il giorno della cucina, delle panelle, noi ci mangiamo un po' di polenta e kebab con i pancreas. Strane creature verdi che studiano i riti dei Celti e dei Longobardi. Non parlano la lingua italiana, non sanno chi fosse il poeta Leopardi. Ma odiano il kebab, Maometto in senza tetto, anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Inventano qualche balla, attirano la folla, col rito dell'ampolla e l'offerta di Obò. Ricordo gli esordi degli uomini verdi, erano contro i terroni pugliesi, anche i sardi, finocchi, gli zingari, i negri, i bastardi, il tricolore Garibaldi. Vogliono il kebab, Maometto in senza tetto, anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Cantando il fa pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così. Non parla neanche bene, si esprime solo a gesti, se lo incontri per la strada proprio non diresti che... Fa parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Ma se la scienza medica si mostra pessimista, ci vuole l'esorcista. Senti che puzza, scappano anche i cani. Stanno arrivando i napoletani. Napoli merda, Napoli colera. Tu sei la vergogna dell'Italia intera. Ma vorrei che fosse chiaro che tra i napoletani c'è, ne sono tantissimi per bene anche di più. Non siamo noi, noi siamo quelli che pure a Napoli ci chiamano Zulu. Odiano il kebab, Maometto in senza tetto, anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Cantando il fa pensiero, ci credono davvero. Fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così. Non parla neanche bene, si esprime solo a gesti. Se lo incontri per la strada proprio non diresti che lui crede di far parte della razza superiore. Si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Ha un posto fisso in villa, si sente lusingato. Ma poi la vera festa inizia quando se n'è andato. Lui crede di far parte della razza superiore. Si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Ed eccoci qua dopo aver ascoltato questo pezzo dei Pancreas. Guarda, sono le... no, in realtà è 44. Era bello dire che erano le 18:42, perché stanotte così saranno le 12:12 del 13-12-12. Non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente. Vabbè, perché c'è la replica, sai come volevo... Niente. Sì, non peccato è che la puntata va in onda il 12-12-12 e la replica il 13-12-12. Perché noi siamo a cavallo tra la fine del mondo e le vaccate comuni. Noi siamo sempre a cavallo. Chi invece è in macchina... Tu sei anche un po', come dire, accavallato o incavallato. E chi è in macchina invece si ascolta la radio. Ovviamente. La cosa bella è farla ascoltare a chi è a cavallo. la radio. Tu secondo me stai molto male. Io spero che venga tagliato in automatico questa parte che ma siamo in diretta, non può essere. No, no, dico nella replica. Nella replica ogni tanto salta qualcosa. Stai ascoltando l'onda in onda, un po' tagliata. A me piace, sai quando nella replica parte il segnale orario, no? Sono le 18:30, è l'una, è 18 minuti e ti fa impazzire, dici che cazzo di ora è? È vero, ho notato anch'io l'altra volta. Grandi problemi, sembra che abbia avuto 10 litri di assenzio e invece proprio la radio che ti prende perché per il culo. È psichedelica, noi dovremmo mandare la replica con qualche canzone dei Pink Floyd. Così, ecco. Poi parte il segnale orario e uno... Sono le 18:40, 1:22. Sì, e tu non hai capito nulla. Pazzi. Del 12:13. 12:13, il famoso, certo, il mese 13, certo. Va bene. Allora, dobbiamo presentare sì, un ospite che è venuto a trovarci qui ai nostri microfoni. Lui è il presidente di Mondo Consumatore di Termini. Io direi di fare partire un bellissimo applauso dal nostro studio. Grazie, grazie a tutti quanti. Noi oggi abbiamo la curva nord superiore, sì, i Warriors. Tantissimi, cioè, tantissimi. Maglio Arnore che ci parlerà di un'iniziativa che si svolgerà domenica 16 e 23 dicembre, dalle 17 fino alle ore 20, proprio a Termini Imerese. Giusto, Maglio? Benvenuto. Intanto buonasera a tutti, buonasera a Andrea e Antonio. Ciao, caro. Nonché a tutti i nostri ascoltatori, i vostri. Io me li accaparro per i 5 minuti. Sì, sarò in radio. Si è autoassunto in radio. Ascoltando. Ovviamente sono anche tuoi, sì. Ricordiamo che Maglio parla coi postumi dell'influenza, quindi se sentite una voce strana è per quello, non vi scandalizzate. Esattamente, sì, ti ringrazio Andrea intanto per avermi dato questa occasione di poter divulgare un'iniziativa che mi preme intanto quanto siciliano ma quanto soprattutto come termitano. Sappiamo tutti il problema, la crisi di questi mesi, per non dire di questi ultimi anni, e soprattutto lo puoi dire, purtroppo lo puoi dire. Soprattutto anche, devo dire, della Sicilia stessa. Noi come cittadini siciliani possiamo dire di aver subito negli anni comunque una regressione economica, una regressione anche produttiva, e perché no, in un momento di crisi cercare l'orgoglio e lo slancio anche per rilanciare l'economia che, come ben sappiamo, è soprattutto fondata sull'agricoltura e sui prodotti comunque alimentari. L'iniziativa infatti nasce come per portare il mercato del contadino a Termini Imerese, quindi è un'iniziativa che ambisce a dare visibilità e quindi anche distribuzione ai prodotti tipici siciliani, e il punto che noi ci prefiguriamo essere nel nostro punto di forza è quello di accorciare appunto il meccanismo della filiera e quindi riuscire a partire dal produttore e arrivare al consumatore senza avere delle tappe intermedie che chiaramente costituiscono dei costi aggiuntivi per la merce stessa e quindi i prodotti agroalimentari. Quindi l'iniziativa è in sostanza come funziona? Le persone cosa devono fare? Vengono domenica 16 e 23 dicembre dalle ore 17 fino alle ore 20 in piazza Crispi a Termini Imerese, quindi a Termini Bassa. E cosa troveranno lì? Allora, troveranno allestito e supervisionato da Mondo Consumatori, ma bisogna dire che la struttura comunque organizzativa ce la porta Isola dei Sapori, che è un consorzio di agricoltori, espressione regionale del consorzio nazionale della Confederazione Nazionale CIA, appunto Confederazione Italiana Agricoltori, che farà degli stand e quindi un mercato del contadino, quindi i normali usufruitori di questa merce potranno tranquillamente acquistare direttamente dal produttore, quindi che può essere chilometro zero, assolutamente, diciamo. I prodotti a chilometro zero, esattamente così, quindi acquistare direttamente presso il nostro mercato. A questa iniziativa, che già io reputo molto interessante, abbiamo voluto collegare un'iniziativa aggiuntiva che è appunto quella dei GAS, acronimo che sta per gruppi di acquisto solidali, che permetteranno a chi vorrà farne parte, quindi in questo caso invito a rivolgersi al Gazebo Mondo Consumatori, che sarà allestito contestualmente al mercato del contadino in piazza Crispi, far parte appunto del gruppo d'acquisto solidale, darà possibilità di usufruire di un ulteriore sconto aggiuntivo praticamente sul costo della merce, per poter in qualche maniera, stiamo cercando di fronteggiare la crisi per come meglio si può. Quindi la nostra iniziativa appunto è questa: dare dei prodotti di alta qualità a un prezzo senza dubbio concretamente conveniente, e a sua volta ribassato grazie alla modalità d'acquisto che è il GAS. Perfetto, allora noi sicuramente metteremo una locandina, metteremo l'annuncio anche all'interno della nostra pagina Facebook, anche sul nostro sito, per chiunque volesse. Quindi ricordiamo, domenica 16 e domenica 23 dicembre dalle ore 17 alle ore 20 in piazza Crispi a Termini Imerese e Bassa, gruppi di acquisto solidali e poi l'acquisto di prodotti a chilometro zero. Detto bene, ho scordato qualcosa? Detto benissimo. Io l'unica cosa che volevo anche aggiungere è che il mondo consumatori ha deciso anche di promuovere un'iniziativa che è quella dei ragazzi Muovi Termini, che si sono prefissati di fare una raccolta esclusivamente benefica e quindi sociale di giocattoli usati, ma anche per chi volesse donare giocattoli nuovi, per poter dare un sorriso anche a quei bambini che in questo periodo di crisi non si potranno permettere, o comunque non avranno una famiglia che gli regalerà, ecco, il nostro ben amato regalo di Natale sotto l'albero. Quindi noi come mondo consumatori abbiamo capito e colto l'occasione per poter fare anche del bene sociale, poter, ecco, entrare in promozione di questa iniziativa che, ripeto, è dei ragazzi di Muovi Termini, e che comunque noi presso il gazebo di Piazza Crispi di domenica 16 e 23 dicembre, quindi permetteremo non soltanto la promozione della stessa, ma anche l'eventuale raccolta di chi volesse, ecco, partecipare e aiutare bambini che comunque questo Natale possibilmente lo faranno un po' meno felice del solito. Diciamo il nome dell'iniziativa, che è un nome molto bello, Non lasciamo quel bambino alla finestra. Esatto, che esatto. Prende il nome da cosa? Questo onestamente è un'iniziativa creata dai ragazzi Muovi Termini, è un nome che è nato in sede lì, e quindi perché io ho visto l'evento, ho visto l'evento su Facebook, mi ha incuriosito. Hai deciso che volevi fare la domanda stronza. Sì, un pochettino. Hai fatto bene. No, un pochettino, perché ho visto perché il pubblico così gli hai stressato l'evento e non se lo scorda più. Non se lo scorda perché ricorderà quello stronzo e ha chiesto: ma che si chiama così? Non ho lasciato quel bambino alla No, perché ho visto la foto, era molto bella, la locandina era molto bella. Il nome mi ha incuriosito, volevo sapere effettivamente perché si chiamasse così, però insomma è comunque un'iniziativa lodevole, e mi fa soprattutto piacere che ci siano molti ragazzi a Termini che si muovono facendo iniziative, senza voler parafrasare il nome, Muovi Termini, ma dico, si muovono proprio nella città di Termini, fanno iniziative sociali e anche insomma ludiche. Da quelle che abbiamo visto, è stato ospite Giulio, che qui dietro il vetro si occupa spesso, sia ha fatto il bungee jumping quest'estate, viene qui a proporre regolamenti per l'associazione. Per arrivare in radio, esatto. Detto, perché prendere la lontano, macchina? Allora, siccome lui dal Belvedere si è lanciato ed è entrato in radio. Quello che si è lanciato in realtà è scusate, lui dà un colpo al microfono perché è giusto. Cioè, è noi Maglio, protestiamo. È Maglio qui a fianco, che sì. Si è proprio sparato con l'accio. Ah, il Rocket. Ah, col sì. Rocket Bungee. Fantastico. Sì, magari ne parliamo la prossima volta. Sì, no. Voglio dire che sono molto contento. Ci sono dei ragazzi che si impegnano veramente in questa città, e questo mi fa ben sperare. Quindi, sì, infatti, ci sono persone. Rottamiamo, formattiamo, e chi non è d'accordo con me vada fuori alle palle. Assolutamente. Vabbè, se parli rozzavare dobbiamo per forza citare anche lui. Vai, prego Maglio, puoi parlare. Ragazzi, volevo lanciare l'ultimo appello per chi fosse in ascolto e in qualità di produttore nonché agricoltore termitano, abbiamo intenzione di fare inserire, di promuovere i nostri produttori termitani anche all'interno di Isola del Sapore, quindi farli entrare in questo meccanismo di mercato del contadino, che in qualità di mondo consumatori comunque stiamo iniziando a Termini, ma ci auguriamo di portare comunque in tutta la Sicilia. Quindi mi raccomando, anche per quelle categorie di produttori termitani che ne volessero far parte, abbiamo la porta aperta. Chiaramente l'iniziativa è anche sociale, quindi che ben venga la disponibilità di chiunque volesse. Perfetto, Maglio, noi ringraziamo. Ringraziamo Maglio, in bocca al lupo ovviamente per l'iniziativa. Ricordiamo domenica 16 e domenica 23 dicembre dalle 17 alle ore 20 in Piazza Crispi a Termini Merese. E adesso volevo dedicare un pezzo a una ragazza che ci sta ascoltando da Parigi, per Claudia, i The Script con Hall of Fame. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're and the world's gonna know your name. Yeah. politicians be preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. E siamo sempre qui con l'Onda in Onda, Radio Panorama. Intanto mi saluta il regista, non so perché. Ciao, ciao, come stai? Ciao, io bene, tu? Tutto bene, sì, siamo bene. Sì. Comunque c'è, gli ospiti se ne sono andati, ne è rimasta solo una, credo. Come non vedo Highlander bene. O come il Movimento 5 Stelle, sì, di Grillo, sì. Ne rimarrà solo una. Ne è rimasta... Lui e Casaleggio. Tra l'altro tra un po' la butteremo fuori, tu starai altri 5 minuti, poi andrai via. Senti, io vorrei dare una notizia di quelle che i nostri ascoltatori, insomma, sono senza queste notizie i nostri ascoltatori non possono andare avanti nel corso della giornata. Sono notizie proprio pregnanti. Noi parliamo sempre di argomenti diversi, poi gli ovviamente argomenti di una cultura veramente, ragazzi, pazzesca, che non potete immaginare. E questo sì, voglio dirlo una volta per tutte, questo è una notizia. Voglio dirlo una volta per tutte. Non gli andava di dire tutte. Perché dire tutte quando posso dire e infatti perché ma voglio dire una volta per tutte, perché questa il tenore di questa notizia si discosta. No, non quel tenore, si discosta totalmente da quello delle altre notizie delle scorse settimane. Sì. Infatti parliamo di sesso. Ah, abbiamo cambiato. Ma come mai? E la curva esplode sulla parola sesso. No, non è vero. Non esplode. Non esplode. Non ma esplode. Esatto. Esplode. Che la curva è lontana, arriva dopo il... È lontana perché la notizia è lontana. Ovviamente, ovvero, non siamo tanto lontana, perché insomma viene dal paese della Merkel, viene da Berlino. Che è successo? Che è successo? Intanto diamo il titolone di questa notizia, che insomma, è esplicativo come quelli che diamo sempre noi. Ninfomane 26enne non vuol farsi curare, mi basta fare sesso 5 volte al giorno. Ma si accontenta di poco la fanciulla. Ma ci sono le foto della nostra del cara sesso? Ninfomane, sì, che è molto se, chissà simpatica. Se è lei, insomma. Sì, sì, no, no, è lei sicuramente. Sì, sì, no, no. Cosa stai facendo non si sa. No, guardavo le foto della ninfomane. Ah, sì. Berlino, Arabella, diciamo si chiama. Ma scusate, Arabella non era la moglie di Orazio. Quella è Clarabella. Ok, scusate, confondo. È una ragazza di 26 anni che ha deciso di parlare della la sua dipendenza da sesso in una confessione al giornale Bild. Ninfomane non ha alcuna intenzione di curare la sua malattia. Anzi, cerca adepti, credo, se, in questo modo. Anche se questa va a scontrarsi con le normali faccende quotidiane, oltre che con la vita sentimentale normale. Per ora non fa un problema. Non ne fa un problema. Non fa un problema, cioè lei non risolve nessun problema. Arriva a scuola. A matematica, dico, ma sì. Quando fa 2 più 2 non me ne frega un cazzo. Ho bisogno di fare sesso almeno 5 volte al giorno. Arabella si è accorta della sua dipendenza del sesso dall'età di 16 anni. Minzia, dal sesso all'età di 16 10 anni, compà. 10 anni, fammi un calcolo veloce. Quante volte l'ha fatto? 5 volte al giorno, 5 per 365. No, 15.000 allora, volte l'anno. Bravo. Sono no, l'anno. 15.000 volte in totale. Se appunto, sì, 1.500 se volte appunto, l'anno, 15.000 volte l'anno. Quindi 15.000 volte l'ha fatto più o meno. Ma, beh, insomma, complimenti. Vabbè. Il suo primo fidanzato inizialmente sembrava apprezzare la disinibizione della ragazza, ma dopo 2 anni cominciano a sostenere più i ritmi delle performance sessuali. Non ce la faceva più, povero. Poveretto. All'inizio lo trovava divertente. E poi non mi bastava mai e ne volevo sempre di più. Per sopperire alle sue carenze, Arabella ha scelto di dedicarsi alla carriera nel mondo del porno. E vabbè, cosa poteva aspettare? Ma... Anche questa strada la lascia insoddisfatta. Per me questo è solo un lavoro e quando torno a casa ne ho bisogno di nuovo. Il mio desiderio per il futuro è quello di sposarmi e avere dei bambini. E farmeli. Anche loro. Ovviamente. Stiamo diventando incestuosi con le notizie, va bene. Allora abbiamo tempo per qualche altra, sì, cosa, certo, per la nostra classifica oppure... Ma sì, quanto tempo abbiamo? Una posizione della classifica. Una posizione. Allora, vabbè, allora ricordiamo che la nostra classifica oggi prevede le 10 domande più stronze che ti faranno sui tatuaggi. Posso fare un piccolo riassunto dell'ultimo posto? Del decimo? Sì, no, leggiamolo completamente. competenti perché abbiamo letto la scorsa settimana. Magari chi non ci ha ascoltato la scorsa settimana se l'è perso, quindi facciamolo nuovo. Io ti chiederò la domanda che al decimo posto è: che significato ha? Nessuno. Nessun cazzo di significato poetico proveniente dal subconscio, caro il mio Freud della bassa. Era un bel disegno e mi andava di tenermelo addosso. E comunque, anche se avesse un chissà quale intenso contenuto, ma mica lo verrei a dire a te che sei profondo come i solchi tra i San Pietrini. E chi ti conosce, vaffanculo, ciao! Stai ascoltando L'Onda in Onda. It's my nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision, long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there, hustle me bitch and you best beware. It's emotional and I told you so, but you had to know. So I told you, soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. Più che prima siamo tornati, ma qua c'è la curva che si prepara a fare gli auguri a Eleonora che compie 20 anni. Vai con la curva. Ma Eleonora è una ragazza è la Ola. Aspetta, guardare da parte la Ola, 1, 2, 3. Ecco che sta tornando, gira da Palermo. Eccola. Eleonora è una ragazza che ogni tanto ci viene a trovare. Ciao Eleonora. Magari è la mia ragazza che ogni tanto ci viene a trovare. Ma stavo infatti parlando, lei ha spodestato il microfono. No, perché da lì non si sente. No, si sta avvicinando. Ciao. Tanti auguri. Grazie. È ora. Vabbè, allora siamo tornati, sono le 19:10. Siamo sempre qui a L'Onda in Onda, dagli studi di Radio Panorama, Termini Imerese, la radio che vi ama e vi dà le imprese. Soprattutto, diciamo, ricordiamo i contatti e diciamo che da adesso potete vederci in webcam. Prima appariva la scritta fuori onda, ma no, da anche adesso. Prima, poi adesso siamo in... Che poi compare chiamarsi come il programma L'Onda in Onda ed essere fuori onda non credo sia bene. Qualcosa peggio dei, come si chiamavano le cose, le punizioni di Dante nei Gironi dell'Inferno, il contrappasso, sai quando contrappasso. Si puniva per... tu lo sai cos'è il contrappasso? Certo, so anche cos'è il contrabbasso. E il contrappunto? Il contrappunto tu prendi un appunto e poi scrivi una minchiata sotto al contrario. Il contrappunto, esatto. Ovviamente, certo, va bene. Notizie oppure no, scusate, una notizia però veloce perché sta scattando scalpitando alla porta un carissimo amico di un paese siciliano. Di un paese siciliano. Perché il regista mi guardi così? No, ascoltavo. L'ultimo baluardo di quella cosa lì. E quando dico baluardo, te mi capisci. Sei un baluardo. Vabbè, allora delle notizie ne parliamo dopo. Invece... No, ma dai, dalla, dai. Dai, diamo una notizia, dalla, va bene. Dalla. Tu lo sai cosa è successo a Roselio? No. È un paese di 300 abitanti, in Val di Sangro. No. Non mi chiedere dov'è Val di Sangro, credo sia al nord, però non ne sono sicuro. Adesso io leggermente cambierò la mia voce, te capirai... Chi è stato oggi a ufficiare il primo matrimonio da sindaco in questo paese? No, scusami. Se ti ricordi, era un personaggio che ci veniva a trovare ai tempi. Ma chi? Io non ho. Adesso... Se ti ricordi con sta voce, ce ne sta uno famoso che scrive libri, cazzate. Moccia! Picchia. Bravissimo! E infatti, durante il matrimonio, pare che gli ha detto alla sposa: vuoi tu, Giovanna? Oddio, scusa, ma ti chiamo amore. E si sono lasciati subito. Ma come? Ma ti no. Giuro. Sì, ma comunque è vero, lui è stato eletto in questo paese come sindaco e oggi ha celebrato il primo matrimonio e firmava autografi. Cioè, fu un motivo più di presentazione pubblica dei libri che altro. Ma. Vabbè. Però ti immagini il vanto di avere Federico Moccia. Senti, che culo. Che cognome imponente, Moccia. Attentura addirittura. Ma noi non abbiamo chiesto alla signora se stanno facendo i pezzi oggi, e non glielo chiederemo. Non le chiederemo. La signora ha cambiato casa. No. Si è trasferita. Ma come? La signora sì, prima. L'ho vista poco fa che scendeva le ultime cose dalla casa. Mi ha detto me ne vado, non ci posso stare più qua. E non torna più. E non torna più. Vabbè, allora direi che forse è proprio il momento di presentarlo. Sì, sì, sì. Andrea, tu vallo a chiamare. Vado subito. Noi siamo, come dire, non abbiamo un contratto firmato con lui, ma lui ci dà l'onore da ben 3 stagioni di venirci a trovare quasi ogni mercoledì. Credo che ci sia stato anche mercoledì scorso, ma è sempre un piacere, come se non lo sentissi da una vita e allo stesso tempo da pochi secondi. Cioè proprio non ci capisci un cazzo quando parla lui. Lui è l'ultimo vero baluardo. Scusate, ma ho visto che ha preso un giornale scandalistico, non capisco il perché. Comunque lui è l'ultimo, non riesco a stare serio. L'ultimo vero baluardo del comunismo non solo siciliano, non solo italiano, ma mondiale. E allora direttamente da Regalcioffoli, in provincia di Rocca Palungba, ricordiamo poi perché con la G, dal collettivo Mattello abbiamo il grandissimo Fidelio Cusimano. Ciao Fidelio. Buonasera. Non rega via come che il pubblico gioisce e non cantano più l'Internazionale. Riproviamo. Perché, guarda, fammi risentire. E se no... Perché è il pubblico che canta l'Internazionale. Ah, che poi applaude e poi ricomincia. Ciao Fidelio, come stai? Buonasera, buonasera a tutti il pubblico comunista di Radio Panorama. Grazie per avermi rinvitato all'Onda in Onda. Un giorno conquisteremo il mondo. Era la rima con onda o proprio lei lo dice come slogan, come inizio conversazione? No, noi lo slogan non lo usiamo perché lo slogan, come dice ovviamente Daniele Silvestri, è fascista. Lo slogan di natura è fascista, quindi... Sì, e quindi noi non lo usiamo. Noi preferiamo usare le Molotov. Ma quando dite voi, quando tu dici, scusa, quando lei, cosa le devo dire? Del voi, del te? Ma guardi, faccio un po' come cazzo. Del caffè, non lo so. Mi dica, lei sì, ha dicevo, sentito che è sfiatato, sì, tipo ogni tanto un sfiato. Palloncino pieno, sì, d'aria. Ho una pentola a pressione, ho la fagiolina per stasera, le volevo chiedere. Le volevo chiedere, ma voi quanti siete? Cioè quando lei dice noi, a che entità si riferisce? Allora, siete 8, 10? Il collettivo Giancarlo Mattello, il collettivo universitario, raccoglie qualcosa come 1200 persone. Senti, quando date i numeri grossi lui si approfonda. 1200 persone. 200 però risale, perché le migliaia hanno una tonalità. 1200. Posso provare anch'io con lei? No, guardi, okay, non volevo. Io non so cosa succederà quando arriveremo a 2000... Perché ovviamente diventa sempre più forte. Però ce ne ha dato un'anticipazione succulenta, possiamo dire. Ma questa è una prova, ovviamente. Ma scusi, se un giorno conquista il mondo. Dovesse dire 6 miliardi. Quello dobbiamo esercitarci. Una delle tappe del manifesto del collettivo Giancarlo Mattello. Ovviamente noi siamo un po' diciamo arrabbiati, perché lei dimentica sempre di dire che noi veniamo qui a proporre questa novità studentesca, sì, che è il Cineforum. Vediamo film e li commentiamo. Tutto qui. Okay. Lei scorda sempre di dirlo. No, vabbè, ma perché voglio che qualcosa la dica lei. Io questa do settimana noi invitiamo, ovviamente, la gente comunista e anche chi no, non lo è, e vuole convertire. Chi no, qualsiasi cosa. E che Ciusi. Perché Ciusi mai. Ciusi mai. È Rocca Palunga, ma non c'è questo pericolo perché il lavoro c'è, lo dà il grande Baffone. Baffone? Chi è Baffone? Lenin. Ah, Lenin. O Stalin, faccio un po' lei. Cioè, dipende dai giorni. Ne riesumano alcuni nei giorni dispari, un altro nei giorni pari. O anche Mattello direttamente. Ah, Mattello, ma senta, di cosa vive l'economia della sua città, del suo paese, della sua colonia, Rocca Palunga, Regalcioffoli? Di cosa vivono? Miniere. Miniere di piombo. Mille miniere di piombo. E se fossero state 2000? No, non ce ne sono. Non sono troppe 2000. Non c'è lo spazio. Non Rock c'è neanche Rocca Palunga. A Rockba. Cioè, sembra il nome del fratello di Didier Drogba. Lei sa chi è Didier Drogba? No, non conosciamo la gente estera, ovviamente. Allora, vorremmo, certo, proporre questa sera un bellissimo film neorealista. Questo è un po' nuovo, diciamo, come genere del film, perché non è un film degli anni 30, è un film degli anni 70 e si chiama Ora faccio la pasticcera, di grandissimo, grandissimo regista Marco Bocci. Ma poi ha detto di grandissimo, non del. Ma Marco Bocci è un attore di Squadra Antimafia, mi scusi, cosa c'entra come regista? No, non è quel Marco Bocci. Ah, è un altro. Ovviamente è un altro Marco Bocci. È quello di Rocca Palunga. Ah, è certo. Un Marco, no, non è di Rocca Palunga, lui è vissuto a Stalingrado nel 1940. E quanti anni ha, mi scusi? Ora ne ha 60, immagino. Ma non è possibile, perché già sono passati 72 anni dal 40. Ma non è vero. Ma che avete si anche è fatto ibernare, poi si è svegliato e ha pensato: devo fare un film in cui la gente mangia, ma lo fa operaia. Quindi ha preso un'operaia e gli ha fatto dire nel film. Infatti il film si apre con questa battuta di lei che guarda il marito seduti a tavola a bere vodka, perché è ambientato in Russia, e dice: ora faccio la pasticcera. Tutto il film è una serie di sguardi tra questi due, marito e moglie, marito e moglie, marito e moglie. Ogni tanto il cane, che non abbaia però, e viene inquadrato nel tappeto. Il film ovviamente è composto da mille fotogrammi. Al minuto oppure cioè in totale? No, mille fotogrammi in totale, però ovviamente la bobina si ripete, perché poi qualcuno se lo scorda la battuta. Il regista ha voluto approfondire questo aspetto e quindi ricomincia: ora faccio la pasticcera. E continua il gioco di sguardi tra questi due marito. Il famoso effetto rewind, possiamo dire. Sì, esattamente. E il film verrà proiettato nella nostra arena all'aperto, a Regalcioffoli. Questo bellissimo film, Ora faccio la pasticcera. Invito tutti quanti a vederlo e a commentare, perché il commento è nello sguardo, non nella frase. La frase è un pretesto, avrebbe potuto dire qualsiasi cosa, ma il grande regista Marco Bocci ha preferito questa frase per aprire il film, aprire e chiudere il film, perché ricordiamo che si chiuderà sempre così. Posso dire un'anticipazione, faccio uno spoiler: il marito alla fine, nell'ultimo fotogramma, il 1001esimo che si inserisce, lo inserisce l'operatore a mano, incollando lo scotch alla bobina prima che finisca il nastro, dice: va bene. Questo è lo spoiler del film. Non è rovinato, perché il film è veramente profondo. Molto bello. Soprattutto un film che inizia e finisce nello stesso modo. Introspettivo. E noi abbiamo parlato tanto di cibo e tanto di mangiare, che mi pare il caso di ascoltare La fame di Camilla con Buio e luce. Sono qui per trovare un riflesso che ti assomiglia un po', perché mi sento solo. Mi vedi qui che cerco pace nel cuore, ma so soltanto come evitare l'amore. Satelliti, abbiamo bisogno di gravitare vicini. Guardami, perché siamo uguali. Lo sai che buio e luce sono figli del sole. questo cuore come guarire. Distrattamente sento la tua voce dire il mio nome. Siamo due strade che si intrecciano. Tu non puoi credere che la ragione debba dire a questo cuore come fare per non soffrire. Torniamo in diretta sempre con l'onda. E mi piace un sacco prendervi alla sprovvista. Su Radio Panorama. A me pure piace prenderti da dietro. Ma alla sprovvista? Ovvio. A te piace tanto. Continuiamo la nostra classifica sulle 10 domande più stronze che ti faranno sui tuoi tatuaggi. Ma tu sei tatuato, Andrea? Io no. E allora no. Perché abbiamo scelto di leggere questa classifica? Perché il nostro regista lo è. Vero? Faccelo vedere, Brumba. Fallo no, vedere. No, non te lo posso far vedere. Vero? Perché c'hai la farfallina sull'inguine come Belen. Sì. Wow. Allora, guardando un tatuaggio, potrebbero farti questa domanda. Domanda, ad esempio, scusami. E se fosse scritto sbagliato la variante del classicone, cioè adesso, ovvero quando il tatuaggio è scritto con un carattere non latino. Adesso sarebbe normale pensare che chi chiede una cosa così non sia sano di mente, perché altrimenti saprebbe che uno prima di marchiarsi a vita magari si è un attimino documentato. Ciò nonostante è statisticamente provato che 9 scritte straniere su 10 sono state tatuate in modo sbagliato. Beh, se mai mi ritroverò come Penny con scritto zuppa sulla chiappa anziché che coraggio, sarà un aneddoto divertente da raccontare ai miei nipoti. Penny, per chi non lo sapesse, è una ragazza che si è fatta tatuare una ovviamente una scritta in giapponese, e invece di aversi di essersi trovata la scritta coraggio si è superato, si è trovata la scritta zuppa invece sulla di aversi che era giapponese, quindi dovevo emulare. A me sembrava più madre grande madre russa. All'ottavo posto invece abbiamo la classica domanda: chissà che fatica curarli, eh? Che poi quella che facevo di solito a quelli con il rasta, con i capelloni, compare. I dread. Ho detto rasta. Sì, il rasta. Però tu mi hai detto che ho detto dread. Ma no, beh, dai, stai scherzando. E che fatica è? Dai, cazzo, che la tua ragazza quando esce dalla doccia ci impiega 4 ore a mettersi su creme, cremine, lozioni, intrugli per la cellulite, la pelle secca, la pelle chiara, le smagliature, i brilluccichini. E chiedi a me se ci metto tanto a curarle, che se anche mi lavassi col detersivo dei piatti non succederebbe niente. Ma va cagare. E questo era l'ottavo posto, ma andiamo subito al settimo posto. E i tuoi genitori cosa dicono? Guarda, non saprei dirti, mio padre mi ha disconosciuta e mia madre si è chiusa in convento. Ora vivo con una muta di cani randaggi, dovresti chiedere a loro. Quindi è andata bene, diciamo, la ragazza è stata... Sì, ma per scoprire le altre posizioni rimanete con noi, perché mancano il sesto, il quinto, il quarto, il secondo, il terzo, il e adesso primo, cosa il primo? Ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo ovviamente Worst Mother. We'll be right back. I tell you all the story about the joker and the thief, I said, I'll tell you all about the joker. Gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They said I'm teenage and scared, the living shit out of me. They could care less as long as someone will bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll lead you alone, but not me. The boys and girls in the clique, the awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said, I'm teenager scared, the living shit out of me. They could care less as long as I wanna bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe the leader will know, but not me. Ascoltando L'Onda in Onda. devo dire che non conoscevo questo mashup dei Beatles versus Joan Jett versus Cypress Hill versus House of Pain versus Rat versus Man versus Superman. Superman e R.A.T.M. R.A.T.M. Machine, sei un ignorante. Rage Against the Machine, scusate, non sapevo. Ah, siamo in webcam. Ma già da prima, però non sì, c'eravamo. Sì, ma ridiamo i contatti visto che ci siamo collegati adesso dopo la pubblicità. Absolutely yeah. You can find us on Facebook all'indirizzo www.facebook.com/londainonda con la L di Livorno o dell'Onda in Onda se volete. O su twitter.com/ondainonda senza la L perché dovevamo come sempre risparmiare. Mandateci i vostri SMS, il primo che ce lo manderà appena daremo magari un sondaggio o qualcosa del genere avrà il primo CD in omaggio, è il 380 7690 204. Ma come avevamo preannunciato, abbiamo l'onore di avere già in regia, mi dicono che è già al telefono, quindi diamo il benvenuto qui all'Onda in Onda a Edo. Ciao Edo. Ciao, ciao a tutti. Come stai? Bene, bene, tutto bene. Grandissimo, noi stiamo bene, noi stiamo bene. Adesso che ti sentiamo ancora meglio, perché noi trepidiamo sempre in attesa delle interviste. Allora, carissimo, io devo dirti che personalmente prendo la parola. Ho ascoltato oggi alcuni tuoi pezzi. Devo dire che mi sono piaciuti. Confesso che non conoscevo il tuo repertorio, quello almeno che hai composto finora, e devo dire che l'ho apprezzato molto. Quindi intanto ti faccio i complimenti personali. Grazie, grazie mille. Allora, senti un po', parliamo di Sendorma. Correggimi se sbaglio. Sì. Perfetto. Giusto, Sendorma. Allora, parliamo un po' di questo. Parlacene tu. Comincia tu, poi ti interromperemo noi quando vogliamo farti qualche domanda. Sì, sì, sì. Ok, allora, questo Sendorma è un album, un mini album, un EP con 6 brani che uscirà ufficialmente sui negozi digitali il prossimo 4 gennaio in negozio a partire dal 22. Ed è un CD che nasce da 2 anni di lavoro, di preproduzioni e di tutto. Siamo finalmente riusciti a farlo uscire. Il disco è scritto completamente, per quanto riguarda la musica e il testo, da me. Uh-huh. Poi un arrangiatore mi ha curato gli arrangiamenti. Ricordiamo però che sei un ragazzino, cioè ricordiamo quanti anni hai. E ne ho 20. Ne hai 20, ne hai 20. E dobbiamo ricordarlo perché la musica intanto va promossa, la musica che non gira sempre sui grandi network, che ha bisogno insomma di farsi spazio. E poi se a farla sono dei giovani, noi ovviamente che siamo dei giovani, per i giovani abbiamo una media qui di 25 anni, non di galera ma di età, è giusto che insomma promuoviamo ancora di più quella che è la musica dei nostri coetanei. Senti, sbaglio, tu sei un fan di Antonio Albano? In realtà no. Non sei un fan di Antonio Albanese, no? No, in realtà no. In realtà no. Poi lo apprezzo, però no. Ah, però no, niente, allora mi è venuta questa domanda e invece sì, vabbè. Sentiamo, la copertina del disco invece che abbiamo apprezzato molto di Sendorma è stata bella. Disegnata da Paolo Zaniboni, correggimi se sbaglio, esatto, che esatto. È conosciuto come disegnatore di Diabolik, assolutamente, insomma. Sì, sì, sì, è vero, disegna le copertine in questo periodo, le copertine dei fumetti di Diabolik. L'hai conosciuto tramite, cioè era una tua conoscenza, diciamo ti sei interessato, sì, tu l'hai già contattato? No, era già una mia conoscenza, perché vive vicino dove vivo io, quindi era già una vecchia conoscenza e abbiamo proposto allora di fare questo lavoro, lui è entusiasta e oltre a questo adesso sta curando la regia e la sceneggiatura del videoclip che uscirà a breve. Ah, perfetto, quindi sarà lui anche a curare questo. Senti, noi stiamo ascoltando in sottofondo mentre ti stiamo sentendo è il tuo pezzo Senza Sognare. Io volevo farti una domanda, così è una domanda banale, la facciamo però sempre, non tanto banale, però c'è un pezzo di quest'album a cui tu sei più legato per un motivo particolare, non per forza quello che tu amerai di più cantare dal vivo, ma ci sei molto legato, magari anche un pezzo che ti piace ascoltare da solo, così nella tua... Sì. Qual è? Assolutamente sì, è il brano che si intitola Foschia. Foschia, che è il primo brano che ho mai scritto nella mia vita, il primo che sono riuscito a rendere canzone, ormai sarà 4 anni fa. E quando è arrivata l'ispirazione? Che momento era quando è arrivata questa ispirazione? Era giorno, era notte? Era in viaggio? Era un pomeriggio a Susa con la Foschia, appunto. Uh-huh. Ma un pomeriggio d'autunno poteva essere. Sì, d'autunno. E hai deciso di cogliere e fotografare quel momento che stavi vedendo così lì davanti ai tuoi occhi. Che progetti hai adesso, prossimamente? Hai un tour che è iniziato, che sta per iniziare? ho un tour che lo stiamo pianificando in questi giorni, quindi da poco sarà, da poco partirà, un tour di presentazione anche del disco, eh? Sì. E per ora nient'altro, vogliamo fare un bel tour tra quest'anno e la prossima estate di presentazione, poi magari facciamo il seguito di Sendorm. Ah, perfetto, quindi potrebbe arrivare al più presto. Arrivare. Al più presto. Esatto. Senti, un motivo per comprare, per acquistare quest'album, se dovessi spararlo così in 10 secondi? Ma perché secondo me in Italia si dissocia abbastanza dal pop tradizionale e quindi... Per dire che è brutto bisogna sentirlo. Assolutamente, bisogna sempre prima ascoltare. Comunque io ti rinnovo i miei complimenti anche a nome di Radio Panorama, ti ringraziamo per essere stato qui con noi all'Onda in Onda. E mentre ti salutiamo ci ascoltiamo il pezzo che dà il titolo al tuo lavoro, che è proprio Sendorma. Ciao Edo e grazie. Ciao, ciao, grazie. Senza di te crescere, vuoto che in me non c'è, per fingere nuvole, tu dove sei? Eccoci qui dopo aver ascoltato il grandissimo Edo con Sendorma. Bella intervista, bellissima, a me è piaciuta un sacco. E... Allora, sono le. Però ascolta, no. Se noi siamo dal vivo, tu non puoi dirmi delle cose che implichino delle risate fuori luogo. Vabbè, allora, siamo sempre qui su L'Onda in Onda da Radio Panorama, gli sui Termini Imerese. Come stai, Brumma? Bene, perfetto, andiamo avanti. Allora, intanto. Sei sinceri ogni tanto che stia bene da questo lato? Io ogni tanto sì, ma soprattutto tu starai benissimo perché non solo da te c'è una buona temperatura, ma hai anche la porta aperta in questo momento, mentre da noi si muore. Ecco, che una persona entra ma dalla porta. Ma tu anche hai la porta aperta? Tu ha... Sì, del bagno. La porta della fogna. Non so che, non ti dico che odori arrivano, sai, sintina si dice proprio in francese. Allora, intanto salutiamo Glenda che ci sta ascoltando dalla Toscana, credo da Pontedera. No, no, Pontedera niente, un altro paese, non me lo ricordo. Ma non ti preoccupare, scusate, non è un problema. Notizie, notizie, notizie. Sì, dalle una e poi abbiamo un ospite importante. Ah sì? Sì. Vabbè, non voglio neanche sapere al momento chi sia. Allora, io volevo parlare delle femen. Ah, le femen, quelle che protestano in topless. Io vorrei capire perché, per esempio, protestano solo in Russia, non vengono qui. Hanno protestato invece anche qui, se ah, non sì, dove? Sbaglio. Dove? Se non sbaglio, dovremmo cercare. Però hanno protestato un po' ovunque, a Parigi, sono andate un po'... Sì, però perché non vengono in Italia, a Palermo, a Roma? Ah, non lo so. Dovremmo chiedere. Devi chiedere, devi perché chiedere. Noi non iniziamo pure a protestare nudi davanti a Montecitorio? Non credo che, faremmo... Che facemmo? Che faremmo molto successo. Tu dici? No, direi proprio di no. Ah, perché se non si è donna non ci so spogliare. Sei ancora legato a queste cose antiche? Dici che devi essere Gabriele Garco per spogliarti, se non niente. Mi sa di sì. Vabbè, allora intanto io vado a chiamarlo. Tu ovviamente presentalo e, insomma, sì, sto tornando. Presenta perché credo di aver capito chi c'è. Sì, e allora lui è un ex medico nutrizionista. Viene dalla Calabria e ha ucciso per errore un soggetto malato di ipertensione somministrandogli la ricetta dell'anduia calabrese. Allora, per lavare l'onta di questo insuccesso, di questo omicidio non intenzionale, gira per le radio di tutta Italia e il mercoledì riesce a essere qui da noi all'Onda in Onda su Radio Panorama per le sue ricette calabresi, per diffondere la bontà di quella che è la cultura culinaria calabrese, le 3C, come le chiama lui nel suo ultimo libro, le 3C di Tony Scopelliti, che ovviamente adesso ci parlerà di questo suo ultimo successo. E insomma, viene qui con noi all'Onda in Onda, ma non possiamo non accoglierlo senza la sua ovviamente famosa tarantella calabrese, di cui ha anche omaggiato l'autore nel suo nuovo libro. E invitiamo tutti voi ad ascoltare, prendere carta e penna e ascoltare Tony Scopelliti. Buonasera, buonasera, buonasera a Tony Scopelliti. Buonasera. Basta. No, no, no, Tony. Ma è una volta ma fici il tesoro. No, non è vero. A dire la verità, no. Quando mi ne termine a radio era chiusa, il resto viene e cagate la prima cosa. Non è vero, ma io non ho neanche una sorella. Addirittura. Buonasera, Tony, come sta? Temo fosse la mamma. Non importa, come stai? Io sto benissimo, Mare. Ma senta, questo suo ultimo libro, questo nuovo libro, ci parli di questo non nuovo sapevo libro. Neanche di averlo già pubblicato. L'avevo solo scritto. Le 3C di Tony. E se le ricorda le 3C? Ovviamente. Quali sono? Calabria. Sì. Cucina. Sì. Culinaria. Culinaria. Ma se già c'è cucina, che c'entra culinaria? Non lo so. Allora c'è mia cucina, Remenzo. Che ci sono i culinaria. No, ma erano altri C. C'era culinaria, cucina, non mi ricordo. Non era cucina. Calabrese, culinaria. Calabrese. Calabre, cucina, calabrese. E mi scordare culinaria. No, non è due volte cucina e culinaria, che so stesso significato. Calabrese, cucina. È chiarissima, non lo so. Non so. Mi non stavo so, confondendo. È il suo libro. Ma con lei si ricorda che cosa vuole. Tony, ehi, lo sto mettendo sotto pressione. Lei deve ricordarsi che cosa ha scritto. Non dica pressione, che mi ricordi. No, ha ragione, per il malato di ipertensione. Senta, ma oggi invece parliamo del libro la prossima settimana, magari. Ma oggi di cosa ci parla? Le dico che ricetta porta? La prima ricetta del capitolo A del libro. Ah, come A, quanto mi ricrio. Ma quindi è un libro di ricette? Certo. Le 3C di Tony. Le 3C di Tony. È un titolo stupendo. Avevo pensato pure di cambiare nome in Cone, e così erano 4C. Però mi dissero che non era una buona idea. Certo, perché poi diventava una cosa sportiva. Cone, comitato olimpico nazionale in calabrese. Allora, maccarone al forno. Come? Il pezzo che vi porto. La ricetta che vi porto oggi è un maccarone al forno. E vabbè, cosa fai? I maccheroni al forno. Bravo. Vabbè, infatti, dal capitolo A. Che si merita schiaffettone. Buono. Dal capitolo A del. Dal capitolo A del libro, le 3C dell'A. Certo. E che andiamo alla ricetta. Quelli che ingredienti, con che ingredienti ci sono? Stai imparando il calabrese che è estremo, sì, misto all'arabo. Sì, sì. Ma sua dov'è oggi? Non un attimo che faccio traser. Vieni, vieni, Michelino, vieni qua. Non devi vergognare, oh zio. Vieni, parla un poco, saluta tutti. Ciao, come stai, amore mio? Sta cominciando a parlare una cosa che sembra italiana. Ah, mamma, come sta? Ha avuto la febbre. Ancora l'ave. L'ave l'auta. Ha preso le mille bolle blu e ha pigliato la pennellata tipo che saccio. Ha pigliato come delle feralgan. usa Regina, stava cantando. Bello, io. Sta cantando, che saporito. Bravo Michelino. Se ne va? Sì, no, se ne, no, se ne devi andare, Michelino. Se ne è andato, Michelino, sei mio. Allora, torniamo alla ricetta. Ingredienti per 4 persone. Carta e penna, mi raccomando, chi è a casa prenda carta e penna, perché il nostro Tony va molto veloce. Chi è in macchina smette di guardare la strada e lo scrive nel suo tablet. Anche tu hai un tablet? Non sapevo. Bambino, allora, siamo 4 persone, ci vogliono 10 kg di pomodoro. 10 kg di pomodoro. 2 kg e mezzo di capi. 2 kg e mezzo a testa. E certo, 2 kg e mezzo di capicollo guanciale. E questa non è facile. Lo so. 2 kg e mezza per 10. 2 kg e mezza, chi ripete proprio in mezza, non è che dice 2 kg e mezzo. Io la seguo pedissequamente. Certo, poi ci vuole un poco di aglio pedisseco. Sì. Sì. Poi ci vuole luprezzemolo, cavone che? Quanto? Tanto, tanto. Un chilo. Un chilo. Non so come si arriva un chilo per sempre. È più difficile, sape quando si raccoglievano i scontrini, che va a arrivare un chilo di scontrini fiscale per regalare una seggia a rotelle. Ma non, ma veramente c'è stata questa. Ma quando? Io non ricordo. Periodo. Non è una battuta, accade 10 anni fa. Ma vabbè. Ma lei può chiedere pure a Antonio, guarda, glielo passa. Antonio, verca. No, un paio, io me lo ricordo. Cioè, no, confermo che tipo 10 anni fa, come dicevo, è verca, aver ragionito. Sì, sì, me lo ricordo. 10 anni fa era così. Vabbè, ma passo la parola sempre a Tony. Allora, torniamo a noi, che se minchiate mi scocciare. Sì. Poi ci vuole una bella cipolla. Grazie a Russia Ritropea. Ma grande, stava volando grande un monitor. Grande tutto lo studio. Infatti un monitor da carne per fare posta. Perché cipolla. Era troppo grande. Esatto, cipolla. Molto rossa soprattutto. Proprio c'è tale colore. Va a sembrare quasi Bordeaux. Bordeaux. Sì. Quindi una cipolla Bordeaux. Tu distingua cipolla Ritropea, ricordati. Cipolla Ritropea, si ghette una letata, muore pure un secolo dovea. A così che è un distingue. Detto antico calabrese, sì. Ah, calabrese. Sì, sì, ma sì, di tutta Calabria. Vabbè, vabbè. Poi ci vuole un peperone rosso peccante. Come? Un peperone rosso peccante. E se fossero stati 1000? Un peperone rosso peccante. No. Mi ricordo 1000 peperoni rossi piccanti. 1000. Ah, vero, perché io adesso. Se erano 1000, era sempre un peperone rosso piccante. Io ho tenuto la velocità a memoria di quello che andavo, Fidelio Cusman. Va bene, andiamo avanti. Allora, poi ci vuole pecorino grattugiato. Sì. Oppure a pecorina grattugiata, fate voi. Sì. Poi ci vuole occhio d'oliva, che dopo è extravergine. Ricordiamo che sì, l'olio. Vabbè, sì, sì, la è l'ultima cosa rimasta vergine nel mondo. Sì. Poi ci vuole un chilo di cavallo. Un chilo di cavallo? Di carne di cavallo. Di carne di cavallo. Che buoni maccheroni sono. I maccheroni ci stanno. Al bacio. Ma vabbè. Anche albano. Poi ci vanno 5.000 uova. 5.000 come? Cioè, come sono assai a 5.000. 5.000 uova. E le dovete fare tutte alla cocca. Sì. Sì, e poi cose. Aggiungete le macaroni leggero. Poi ci vogliono 3 kg di carne di bue. Beh, dritata. Già la ricetta non è che sia proprio leggera. No, ma poi quando la mangia, è buona. Sì. Poi ci vuole mollica di pane, tante. Cioè dovete andare per strada e cogliere mollica la strada di chi di mangiare. Quindi anche una caccia al tesoro. Ovviamente è difficile. Chi mangia il panino, c'è cioè lo studente con la mortadella. Mangia, chi mangia il panino, esatto. Tutti dietro, il paese dietro. Ah, tutti dietro, tipo bollicino, sì. Panino, ragazzo, con panino. Sì. Allora, preparate una salsa con mezzo bicchiere d'olio e poco struzzo. Questo di maiale. Assolutamente. Ripetiamolo. Ma manca cominciamo. Vabbè, no, dico. Preparate una salsa con mezzo bicchiere d'olio e poco struzzo di maiale. Struzzo. Ah, scusi, struttolo. Strutto. Sì. Ah, strutto. Strutto. No, pensavo a fruttolo. E basta. Strutto. E fine qua? Allora, no, mi pare devo salutare. Poi ci vogliono i pomodori pelati, cipolla e prezzemolo. Perché chi non costa meno? E prezzemolo, una Z. Sì. Poi dati dei capi. Dati del capicollo guanciale. Quindi vi potete pure curcare durante la ricetta. Mettate una guanciale e dormite. Uno sticchio d'aglio. Sempre spicchio. Ah, io leggo sticchio. Ma peperone rosso peccante spezzettato. Fate soffriggere tutto e aggiungete solo un secondo tempo e pomodoro. Leccate in abbondante acqua dei maccheroni. Pensate, signor Tony. Avevo letto leccate. Abbondante acqua dei maccheroni spezzate con le mani, uccise. Vi dà essere proprio ingazzati. Ma perché? Peperone, perché i maccheroni hanno amore. Che una volta cotto si stemereta. Ah, diventa pugliese. Si stemereta, porca puttana. A strada. Una ricetta cala. Da condire con la salsa e cospargerete. È come un ordine. Voi le lesserete. Un giorno le cospargerete. Di pagano di pecorino grattugiato. Pezzette di cavallo. Fettine di uova. Il cavallo morto. Ma polpettine di carne. Preparate con carne. Preparate con carne. Aglio e prezzemolo tritato. Aglio, prezzemolo e fenocchio. Mollica di pane. Uno intero. Uno mezzo parzialmente scremato. Sale e pepe nero. Passate in forno. E poi, ma lo pigliate, perché passate lo forno e poi ci ripassate e lo pigliate. Ah, quindi si porta tutto. Dovete nel forno del paese. Sì, mettete un forno nel forno del paese, fate un giro del paese e ripassate e lo pigliate pronto. Va bene, questa era la ricetta dei maccheroni al forno di Tony Scopelliti. La ringraziamo, mi raccomando, tornerà la prossima settimana. Mi può dare anche del voto. Lo può dire, vi ringraziamo. Vi ringraziamo. Non lo dica, che mi piace. Caro Tony. Ecco, vi ringraziamo, caro Tony. Caro Tony, vi ringraziamo noi del Ducato di Radio Panorama per essere stato qui con noi. L'aspettiamo vi aspettiamo la settimana prossima. Come non sbagliassi, capo, ci resto male per ogni cosa ci rugno quando lei sbaglia. Schiaffettoni. Bravi, il vostro ultimo libro, Le 3C di Tony, sì. Scritto tutto in terza persona, ovviamente. Ovviamente in terza persona. Ricetta in terza persona. Terza persona calabrese. Calabrese. Che certo. È diversa dalla terza persona. È sempre diversa. Ci ascoltiamo il prossimo pezzo. Lo posso annunciare io? Ma faccio un po' come chi credo. Sei calabrese su? I Joan Jett the Black Hearts, I Love Rock and Roll. Been about 17. Big and strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Ever wonder about what he's doing? How it all turned to lies? Sometimes I think that it's better to never ask why. Right. avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. Eccoci qui in diretta come ogni mercoledì con Marco. Ciao Marco, come stai? Ciao, benissimo ragazzi, voi? Bene, bene, bene, bene. Com'è lì il tempo? Meno 8 gradi, meno 2, come siamo? Più o meno siamo intorno allo zero, quindi questo vuol dire che la fine si sta avvicinando. Mancano una decina di giorni, no? Sì. Ma oggi è un giorno speciale, è il 12-12-12. Esattamente. E noi ci aspettiamo un film, non lo so, di quelli clamorosi da guardare. Quando dici manca d'ora alla fine del mondo, cosa faccio? Guardo un film brutto che mi ha consigliato Marco. Ma infatti oggi diciamo ho scelto uno dei nostri eroi, che è Chuck Norris. Questo guarda è un filmone, perché proprio si chiama in inglese Hero and the Terror, peggio conosciuto direi, invece che mai conosciuto in Italia, come Un eroe per il terrore, che è ovviamente un titolo ridicolo. Un eroe per il terrore. Ma veramente è un titolo da tipo da fiabetta, cioè, non so, veramente vergognoso. Preferisco molto di più il titolo originale, Hero and the Terror, cioè l'eroe e il terrore. Cioè, che è proprio, infatti, è già brutto di suo. Esatto, questo è proprio, cioè, il film brutto in cui proprio la tematica tipicamente nordissiana, cioè del bene assoluto contro il male assoluto, ha il suo massimo compimento, perché abbiamo da una parte appunto l'eroe, che è questo detective O'Brien, che è un classico poliziotto dai metodi molto risoluti, ma integro, onesto fino in fondo, totalmente succube poi anche della moglie, in questo caso Chuck Norris, strana, per Chuck Norris, esatto. Infatti insomma viene anche colto in atteggiamenti quasi affettuosi nei confronti della consorte in qualche scena. E dall'altra parte questo non è un bene per Chuck Norris, potrebbe finirci esattamente male. Esattamente. E poi dall'altra parte appunto abbiamo il terrore, che è questo energumeno incapace di parlare, che si esprime con dei grugniti, con degli stronfi, che appunto praticamente uccide qualunque donna trova nel suo percorso. Senza un motivo. Senza un motivo. Ovviamente, se no sarebbe un film bello, invece non deve esserci il motivo. Esattamente, però proprio l'insensatezza della cosa. Quindi appunto dicevate bene che è un male per Chuck Norris essere così succube della moglie, perché appunto il terrore era già stato diciamo messo in cattapuglia da Chuck, esce diciamo da questo manicomio criminale e appunto va poi a rapire la moglie di Chuck Norris, creando praticamente una situazione veramente drammatica per il nostro, che poi chiaramente a furia di calci volanti e sganazzoni nel viso riuscirà chiaramente a risolvere la situazione e tutto finirà per il meglio. Quindi il terrore viene schiacciato nuovamente dall'eroe, riportando tutto a una situazione di stasi di bene, come è previsto dal canovaccio classico del film. Ricorda un po' il Cavaliere Oscuro, quando esce Joker e rapisce. Esatto, non mi ricordo i nomi. Sì, vabbè. Comunque lei e lui la va a salvare. È vero, c'è un qualcosa. Vedi, Andrea, sei collegato. Stasera Andrea è con noi. Sono collegato. Ma la scena clou di questo film, Marco, qual è? Ma è sicuramente l'evasione del terrore, cioè, si fa proprio riferimento al terrore come a questo personaggio negativo, che quando esce diciamo dal manicomio criminale si fa strada con praticamente uccidendo sul colpo chiunque gli si pare davanti, con una specie di presa al collo che ovviamente non farebbe male nemmeno a un cagnolino, insomma, proprio veramente scordinatissimo. Tra l'altro l'attore che interpreta il terrore è lo stesso che faceva il cattivo rincisullito del trio, sai, di Superman, del vecchio Superman, Zod, quello con la barba, quello ricoglionito, sì. E tale rimane anche in questo film. Io non conosco, quindi mi fido di voi, perché purtroppo non conosco. Beh, per fortuna che adesso c'è il reboot, l'Uomo d'Acciaio, quindi tornerà il generale Zod e quegli altri. Speriamo non ritorni l'attore rincoglionito, cioè comunque uno che fa la parte dell'attore rincoglionito, perché è veramente assolutamente inutile, diciamo. No, tra l'altro, Marco, mi hai lanciato questo assist. Io devo dire che sto aspettando di vedere vedere Lo Hobbit solo per vedere il trailer di che l'ho già visto, però voglio vederlo in 3D, il trailer dell'Uomo d'Acciaio, che per la regia di Zack Snyder, che ha fatto Watchmen e 300, e poi Christopher Nolan, che è la produzione, che è appunto il regista del Cavaliere Oscuro. Quindi vedi, tutto si ricompone mentre parliamo, bellissimo, quindi veramente la fine del mondo. Marco, con cosa accompagniamo questo film? Allora, questo è un film per gente tosta, e quindi ci vuole uno snack da duri. Veramente ci vuole un toast. Ci vuole un toast. La fistola. È la fistola. No, la fistola. C'è proprio la fistola con la F di Firenze. No, con la fistola con la S di Savona. Ah, la sistola. E cos'è la sistola? Esatto. Non so se da voi è un termine usato. La sistola qui da noi è quel tubo di gomma che usa per innaffiare, diciamo, le piante. Ma come? No? No, no, ma dobbiamo mangiare il tubo di gomma. Esatto, praticamente è un dolce, è uno snack dolce che praticamente ha un esterno, un involucro gommoso ma molto molto molto molto duro, che è quasi impossibile da masticare, e un ripieno poltiglioso, sembra fus, a dirla tutta. È veramente tosto, questo mette in crisi, perché bisogna avere veramente le mascelle d'acciaio per poterlo diciamo masticare e poi deglutire, insomma. E immagino che non sia neanche buono come dolce, perché altrimenti non sarebbe... No, assolutamente, è veramente dannoso, perché oltre, diciamo, alla difficoltà proprio nel masticarlo, nel ingerirlo, poi il retrogusto è veramente pesante, e non ti dico la quantità di acidi gastrici possiamo immaginare. Senti Marco, l'ultima cosa, troviamo... Sì, mi sono incartato da solo. Troviamo qualcuno alla regia che sia degno di nota, oppure un regista sconosciuto come nei soliti film brutti? No, no, questo è un emerito sconosciuto, tale William Tanner, che... diciamo non penso abbia avuto buona fortuna, diciamo, dopo questo chissà film, perché giustamente, anche, sì, giustamente. Scusami Marco, sbaglio, dico gli ultimi 30 secondi, ho sentito in sottofondo una voce soave femminile, posso sbagliarmi? Sì, no, è la mia gentile console. Ma noi vogliamo, salutarla, ce la devi passare un attimo e vogliamo farle una domanda. Tu ce la passi adesso? Assolutamente, vai. Ve la passo subito. Vai. Sì? Ciao! Dalla Toscana! Tutto bene! Sì, tutto bene, dalla Toscana con furore. Un applauso per la nostra... Che bene! Oh, io voglio venire in Sicilia! Vabbè, ma voi venite... Un altro anno, se non finisci il mondo, vengo sicuro! Vabbè, ma allora venite pure il giorno dopo, aspettiamo pure il 22, che problema c'è? Cioè... ora no, non si può venire d'estate! Ah, si può venire, lo capisco, sì, c'è il caldo, c'è il mare... Ma te come ti chiami intanto? Perché noi parliamo, ma non sappiamo il nome! Io mi chiamo Sheila! Come? Sheila, la mia mamma purtroppo gliela presa di mettermi il suo nome così un po' assurdo. E Marco non poteva che mettersi con una Sheila, contro Sheila, sì, ovviamente. Esatto, perché non conosceva la persona, perché mettendosi con me è proprio l'autopunizione, sì, proprio completa, ecco, insomma. Che grande, sì, che grande. Noi vi aspettiamo con vi tutto aspettiamo il cuore per in fare un cineforum in arena e poi tutti al mare. Solamente film brutti, sì, e poi tutti al mare. Poi tutti al mare, tutti bene, al mare. Bene, va bene, Sheila, grazie. Grazie di averci. Grazie a voi, sei veramente simpatico. Troppo buona, troppo buona. Troppo buoni. Buona serata, sì, allora. Allora non te lo ripasso. Sì, no, ripassaci. No, mandiamo la colpa, salutiamo lei. Ma no, dai, ripassaci la moglie. No, il presidente va sempre. Allora ci passi il presidente, ci passi il presidente. Ciao ragazzi. Ciao. Eccoci. Marco, allora, complimenti per la scelta del nome, è proprio da autopunizione vera e propria. L'ha scelto lui, no? Sì, è come se o l'avesse battezzata lui, per come dice Andrea, oppure lui fosse andato in giro: oh, ma qui c'è mica una che si chiama Sheila, sono io. Beh, allora sposiamoci mo' adesso, cioè, così. Vabbè, grande, va bene, allora vi aspettiamo in Sicilia, noi invece no, con te ci sentiamo mercoledì, giusto? Sì, mercoledì prossimo, e poi ci organizziamo per l'ultima puntata prima della fine del mondo, quindi proprio l'ultima puntata della sera dopo. Va bene, Marco, noi ti ringraziamo, ti dedichiamo il grazie pezzo che stiamo per mandare in onda, ci ascoltiamo i Fan con Some Nights. Any Fateci caso, ora tu alza. Non sembra un po' che potrebbe essere la colonna sonora del Re Leone? Aumenta, aumenta. Figlio, un giorno tutto questo sarà tuo. No, tra l'altro, e poi si scoprì che aveva una stalla. Complimenti ai fan, è un vero gruppo indie rock. Ah, che pensavo ai nostri fan. No, no, ai fan, i fun scritto. Che stanno, credo che abbiano ricevuto il Grammy per il loro ultimo. E quanto album. Pesa? Almeno 100 Grammy. È il primo, quindi pesa poco. 100 Grammy. È perché hanno tanti fan. I fan, sì, che guarda, mamma mia. Ma tu immagini sul palco, senta, ecco il premio, ho fatto 150 Grammy, che faccio, lascio? Perché era da 100 invece. Continuiamo con la nostra classifica. Sì, sono le 20:21. Chi ci ascolta in replica, sono l'una e 51 della notte. E siamo alla classifica delle 10 domande più stronze che ti faranno sui tuoi tatuaggi. Alla posizione numero 6. Ah, ti piacciono i tatuaggi? E quindi che giri hai? Ho tatuaggi, quindi in primis mi drogo. Ed è pesantemente. Uno. Ed è uno. Poi esco con una banda di malavitosi con cui derubo le vecchiette, maltratto i cani e mi diverto a vandalizzare le macchine. E sono due. Faccio collezioni di malattie sessualmente trasmissibili. Estorco denaro ai miei genitori e sono la, sono solo da fare un paio di vacanze l'anno nelle carceri della mia e città. E sono 3 plus. Demente assoluto, ma cosa vuoi che faccia? Sono una persona normalissima, anzi magari sono più normale di te che tatuaggi non ne hai. Ma la sera dai la buonanotte ai tuoi figli e poi vai a trance. Fantastica risposta, ma andiamo subito alla posizione numero 5. Ma era il caso di spenderci tutti quei soldi? E che cazzo sei? Il mio commercialista, mia madre, mio marito. Anche perché poi parlano loro. 500 euro di giubbotto, 300 di scarpe, un euro da 7000 euro. Un euro! Un euro! Un auto. Cos'è un auto? Da 7 miliardi di euro fu un optional, presa rigorosamente in leasing. L'iPhone, il povero chihuahua ritardato sotto il braccio, chiappa stretta e la griffa sulla borsetta. Morti riottosi dentro. Ragazzi, di me. Morti riottosi, se ne fa un altro. Andiamo alla posizione numero 4. E ti lascio il podio per leggerle tu, perché non ce ma la non farò sono mai più. Ma non sono un po' troppi? Davvero? Dici che sono troppi? Cazzo, reparo la grattugia che ne scartavetremo via un po', così che possono rientrare in un numero confacente a quello dei tuoi neuroni e tu possa esserne soddisfatto. Esterne, che è la sorella di Esther, ovviamente. Ma ti hanno fatto male? No, tranquilli, i tatuaggi li fanno con gli aghi, ma non fanno male, zero, niente. Come un soffio, un bacino, la carezza di un angelo. E poi prova a propinargli tutta la filippica sulla soggettività del dolore, inutile come le mutande in un film porno. Andiamo a scaldarci alla posizione numero 2. Ma scusa, ora che hai sto tatuaggio in vista, come farai a trovarti un lavoro? Certo, ovvio, chiaro, la palissiano. L'ho messo anche sul curriculum, guarda. Sono tatuato e quindi sono un delinquente, il peggiore. Se mai mi assumerete, sappiate che non sarò mai in grado di svolgere decentemente il mio lavoro. Fumerò al cesso, ruberò le matite, appiccicherò le caccole sotto la scrivania e mi fotocopierò le chiappe a tutto spiano, facendo fallire la vostra misera azienda. E ora, anche se non abbiamo il rullo no, di tamburi... No, ma che dici? Il rullo di tamburi ovviamente c'è. Ce l'abbiamo? E perché? Allora era sopra in alto a destra, sopra in alto a destra. Sempre lì, attenzione, perché alla posizione numero uno, devo ammettere che anche io lo chiedo. E se poi te ne penti? E se poi te ne penti? La madre di tutte le domande idiote. E se poi me ne pento? Ciccia, pace, amen. Mal che vada, passerò una vita in maniche lunghe. Sarà comunque più interessante della tua. E questa era la classifica delle 10 domande più stronze che ti faranno sui tuoi tatuaggi. Per restare sempre in tema di domande, prima di passarci il prossimo pezzo, di classifiche, a quanto pare i termini più cercati quest'anno su Google in Italia sono stati Facebook, Dalla, non nel senso di consiglio ma di cantante che purtroppo è scomparso l'1 marzo, Spread e... Vabbè, quello è falsato però. Beh, però tu non cerchi. Ma se uno cerca Dalla su Google per... Dici magari gli annunci verbo. Porno. Allora invece l'ha falsato il cantante. Potrebbe essere Spread è... ma Dalla maiuscolo però. Dalla maiuscolo. Beh, se la dai bene. Ah, se la dai bene. Certo, è maiuscolo. È metrosexual. Brumma e Massaro. No, Massaro sicuramente sì. Brumma, sai cos'è un metrosexual? Perché l'ho scoperto da poco. Sono quelli che mi hanno battuto al quizzone. Sì, questo è vero. È una quadra che l'ha battuto al quizzone. La parola metrosexual, perché molti pensano sia altro, ve la spiego io, la prendo proprio da Wikipedia, è utilizzata per indicare una nuova generazione di uomini eterosessuali, tendenzialmente metropolitani, da lì metro, consumatori di cosmetica avanzata, curatissimi nell'aspetto. Tra i mezzi più diffusi c'è l'ossessione per il fitness, la bronzatura a raggi IVA e via dicendo. IVA, sì, perché è aumentata l'IVA, quindi anche i raggi adesso te li fanno pagare a caro prezzo. Intendevo UVA, ovviamente. Gli interessati sono a raggi UV. Veramente UVA. Esiste il raggi UVA, UVB e UVC. Ah, e vabbè. Vaffanculo. Ok, era UVC. Questa era la classifica UVA. Sui raggi UVA. UVC, un bagno, un bidet. Un doppio servizio. E poi c'è pure la cucina attrezzata. Abbiamo finito? Sì, ovviamente. Va comunque ricordato che il termine è legato al giornalismo e non si riferisce direttamente a categorie della psicologia. Non si tratta semplicemente di vanità, ma della ricerca quasi ossessiva della perfezione. Per gli interessati, l'editoria offre numerose riviste dedicate al nuovo maschio e fanno delle mostre. No, con omosessuali che danno dei consigli. Quindi questo, per cultura personale, è il metrosexual. Che in realtà si vede anche in American Psycho. C'è il esatto, bellissimo bravo. Christian Bale, che tiene talmente tanto al suo corpo e alla perfezione, anche alla perfezione nel lavoro, che poi diventa un pazzo. Vi consiglio di vederlo se non l'avete visto. Va bene, ma passiamo subito. No, non passiamo no, subito. No, noi non passiamo. Noi perché non dobbiamo salutarvi. La puntata è finita e quindi ci rivediamo. Ah, quindi andiamo in pace. Andiamo in pace. Però ricordiamo che noi saremo in onda mercoledì, con la solita puntata del mercoledì alle 18.30 fino alle 20.30 e avrete delle news per quel che riguarda la puntata giorno 20 giovedì, vediamo sì. Come riusciremo a organizzare insieme ai ragazzi di Positive Vibration, se lo vorranno e se riusciremo una puntata tutti assieme per la fine del mondo. E come la chiamiamo la puntata? Tutto un altro mondo? Non lo so. Non sia Maya, però questo già l'hanno inventato. Non sia Maya, però l'hanno già inventato per una serata in un locale, quindi non possiamo utilizzarlo, penso ci denuncerebbero. Siamo una maialata. Una maialata. L'ultima maialata. E questa possibile. È bella, l'onda in onda, sottotitolo L'ultima maialata. Va bene ragazzi, allora ci risentiamo mercoledì prossimo. Noi vi ringraziamo, salutiamo la curva che applaude ovviamente. Ovviamente non applaude perché, ecco, c'è un applauso dal vivo. Ringraziamo Katia che è stata qui nostra ospite, non l'avevamo salutata prima. C'è la Ola. Aspetta, fai il giro del mondo, ecco che sta ripassando. Ehi, è ripassata. E allora lui era Andrea, lui era Antonio, dietro il vetro Bummo, e noi vi salutiamo, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao. Ciao. lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big bro. Oh, bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane. In a riot, my shit's fat like a sumo, slamming that ass, leaving your face in the grass. You know, I don't take a dulo lightly, I'm just jealous cause you can't outright me or kick that style. Wicked, wow, happy face nigga, never seen me smile. Rip that mainframe, I'll explain. A nigga like me is going insane. And try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad. And I'm up in the night, too scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane.